come diceva quello, sono pezzi d'oro, dai. Sono la ricchezza più grande di un genitore, o meglio dei due genitori, perché è così, ma almeno io lo penso così, poi altre persone la possono pensare in un altro modo, ma io la penso così. Tutto a posto, tutto tranquillo e tutto sereno. Quello che conta adesso è la salute. La salute che ti accompagni più a lungo possibile e dopodiché, quando sarà arrivato il momento, pazienza, che cosa vuoi fare? Ma almeno se non altro, so di aver lasciato un qualcosa di importante nella vita e soprattutto alla famiglia. Avanti qua. Si conferma, è proprio così, è proprio così, e vabbè, comunque, l'importante è che abbiamo fatto qualcosa, abbiamo realizzato qualcosa, non avete i genitori ipocriti e che pensano solo a loro, poco mi piacciono, non mi fida ne una e grazie a Dio gli ho dato tutto quello che potevo dare, e sono pronto a dare ancora, perché grazie a Dio già sono giovane, ma il momento va bene così. K. Dove è andato Luca? Ma è arrivata Marina, ma ha detto, mi sembra di aver detto così. È arrivata Marina e allora si è allontanato. E così è qua, e così è. Vabbè, ormai. Siamo lì, siamo grandi, abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora oggi, grazie a Dio, la nostra vita, per cui sono contento. Tu mi dirai, ma si poteva fare meglio? Sì, si poteva fare meglio, sì, certo, ma mettiamoci anche nei panni di quelli che non hanno fatto niente, anzi che hanno fatto danno addirittura in famiglia, oltre che per se stessi hanno fatto danno anche alla famiglia. Quelli non sarebbero uomini, quelli non sono persone, quelli sono dei randaggi. Io lo vedo in questo modo, per cui quando sento una persona tranquilla, io sono orgoglioso per loro e soprattutto per me che ho realizzato qualcosa. Ma sono contentissimo anche per le persone che conosco, per le persone, amici, per i parenti, eccetera, eccetera. Va bene, li prendi. Non ti spaventare che ho abbassato la potenza, stavo solo provando, l'ho rimesso a 10 watt, io va bene lo stesso. E infatti, i 5 genitori che pensano solo a loro. I figli sono niente, capito? Nonostante abbiano delle buone entrate, non è che le fanno un conto in banca, cercano di aiutarle a comprare una casa, la pensano solo a Eddie. Io non ho mai fatto questo, io ho pensato sempre alla famiglia, grazie a Dio, posso aver fatto, per carità, anche i miei errori, di sbagliare umano, però ho pensato alla mia famiglia, e grazie a Dio non mi posso lamentare pure. Chi vuole capire capisca, a me poco mi interessa gli altri. E già lo credo. Io tanto per essere chiari, fra un mese faccio 50 anni di matrimonio, cioè agosto. Il giorno dei candelini, tanto per dirne una. Oggi la gente di oggi, soprattutto molti giovani, oggi si formano una famiglia. E da quei 15 lì sono separati. Non lo so con quale mentalità si formano prima una famiglia per poi distruggerla così in 448. Va bene, comunque, che sia una cosa diversa, non c'è dubbio. Certi cervelli per me sono dei cervelli non malati in fatto di sanità, ma baccati mentalmente. Io ho sempre pensato così e continuerò ad essere coerente con le mie idee. Io lo sai che non ho problemi, sono solidale con te, questi sono discorsi giusti e perfetti, però ti ripeto e ribadisco, c'è molta gente che quello che pensiamo io e tu non lo pensa, pensano a loro, macchina bella, qui e là, capito, spendere a destra e a sinistra, però non pensano ai figli, che hanno bisogno anche di una mano, hanno bisogno di un futuro. Io questo ho fatto, grazie a Dio, non me ne sono pentito e sono pronto, ti ripeto, a continuare a farlo, fino a quando mia figlia siamo fatti grandi, mia figlia di 14 anni a lavorare come me, quindi penso che ne ha 35 a novembre, perciò penso che la sua strada già se la stia facendo. Certo che sì, ma è così. L'unico mio rimpianto è che la prima figlia purtroppo non ce l'ho. Purtroppo è morta quando era piccolina. Pazienza, vuol dire che il destino, che Gesù Cristo ha voluto così. E come vuoi va. Alle volte ci sono anche questi momenti, però mi sarebbe piaciuto se ci fosse stata anche Annitta. Purtroppo Annitta non c'è. Vabbè, pazienza. La vita è così. Perché io ne ho avuto due figli, non uno, due ne ho avuto. La prima era morta, piccolina, qua. Grazie a Dio sono fortunato con questa qui adesso e spero di essere sempre contento e allegro e di godermela fino alla fine della mia vita. Sì, non fermo, mi stanno portando, c'è qualcuno che vuole entrare, visto qualcosa che si è mossa. E Giulio, io avevo il maschietto, capito? Ed è nato morto, le mancava il ventricolo sinistro, quindi lui avrebbe avuto esattamente 26 anni, capito? 26 anni avrebbe avuto, infatti mia figlia mi ha fatto tutta la vita. E purtroppo è così, anch'io ho avuto una sorpresa nella vita, però purtroppo si va avanti, si cerca di andare avanti. Ma mia figlia si è diplomata, però anche durante il diploma lavorava sempre in questo settore perché era quello che piaceva, poi si è iscritta all'università, ha fatto triennio, poi si è ritirata, perché purtroppo a lei le piace lavorare. Studiare un po' meno, però già va bene lo stesso. Grazie a Dio non ci possiamo lamentare, ne prendi. Certo che sì, è così, è importante quello. È importante, sì, mia figlia prima si è diplomata, poi si è laureata, e sta facendo la professionista, sta facendo. E tutti i giorni passa anche davanti a casa tua. Non tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. Perché è impiegata anche in quel posto lì, in alto, per cui ha due lavori, no uno, due. Uno è quello della professionista che fa suo personale e l'altro è uno stipendio tranquillo e fisso, che anche quello è importante. Tutto questo se l'ha guadagnato, perché se l'ha guadagnato. Siamo due uomini fortunati, sia io che tu o Claudio, no, non ci possiamo lamentare, dai, nella maniera più assoluta. Infatti non mi lamento, assolutamente no, perché quello che ho realizzato l'ho tutto dato a lì, tutto già deciso, tanto cosa stai a fare? Aspettare la successione, no, non va bene. Io ho tutto intestato lì, tutto indistintamente. Anche il conto in banca, tutto l'altro, per cui non c'è problema, così almeno se disgraziatamente dico, vengo a mancare, è tutto a posto, tutto realizzato qua, pure un conto in banca, e non è più, e non è poco, e non è poco. Giulio, uguale, preciso identico, se tu vieni qua e guardi nel campanello c'è il nome suo, non c'è il nome mio. Anche qua è tutta roba sua, la vendita della casa, li ero già depositati, la stessa cosa ho fatto io, sono arrivato, ma non mi interessa, io grazie a Dio e mia moglie la nostra pensione e viviamo tranquilli e sereni, anche se i sacrifici ce ne sono da fare tanti, per carità. Però va bene così, il resto a me non mi interessa, quello che io ho realizzato, sono riuscito a realizzare. Roba sua, a me non mi interessa, va bene così, quindi diciamo che abbiamo le stesse idee e i progetti che abbiamo fatto li abbiamo già esauriti, non voglio nulla, è tutta roba sua, anche perché non si sa. sa mai, non manca l'improvviso, devi stare a, a guidare le due di legge, cioè già tutto lei, gestisce tutto lei, non mai quando mi servono solo di là, mi serve pronti, riprendemi là, perché tutto le sue conti non va giù nulla. Avanti il becco! Va, va positivo, da dove andiamo quanto? La radio esce bene, perché il Santiago era nuovo, però poi c'è stato queste vie e si è abbassato il segnale. La radio è buona, e perlomeno io ti sento bene. Avanti il controllo operativo e da dove stai trasmettendo, per cortesia. Io sono in Sardegna, la città di Sassari, e sono Giulio Dolla, avanti. Positivo, dai, io sto modulando da lì, Ok, se ho capito bene, stai modulando da Lecce, mi è sfuggito il tuo nominativo, comunque dai, prima ti passo un amico, può darsi che lui ti abbia anche identificato col nominativo. Avanti Claudio, questo amico di Lecce. No, ciao, ecco, io non sono riuscito a capire, ho capito da Lecce, direzione Gallipoli, sicuramente qualche trasportatore, confermi? Sì, abbiamo capito che sei a Lecce, che sei in Barramobile, l'abbiamo capito, ma il tuo nome nativo, come ti chiamo? Non ti posso chiamare Camionaro, no, non ti voglio chiamare così, dimmi il tuo nome nativo, vai. Papa, ho detto tre volte, l'ho detto, Franco. Ok, adesso si è arrivato perfettamente bene. Ok, Franco Alfa 4, avanti Claudio, per Alfa 4, vai. Sì, sì, adesso l'ho capito anch'io. Ciao Franco, buonasera, ben ascoltato. Da Sassari, diciamo, zona campagna, Claudio Sperero che ti saluta, avanti. Positivo, dai, Franco, ci sono anche altre sovramodulazioni, per cui tante volte la tua modulazione non arriva chiara, tante volte, perché ci sono altre, perlomeno io sento anche altre sovramodulazioni, per cui tante volte mi sfugge quello che dici. Va bene, comunque mi fa piacere che tu sei entrato a salutare almeno così un collegamento con Sassa di Sardegna. Va bene, comunque io ti ripeto il mio nominativo, in caso non l'avessi tu ascoltato, io sono Giulio, dalla città di Sassari, Giulio Dollaro, Sassari, Sardegna. Avanti ancora Franco. Marito, non lo sento più Claudio, non lo sento più. Ho sentito le prime tre sillabe e poi non l'ho più sentito. Vai Claudio. Sì, anch'io Giulio, non riesco a sentirlo più. Ho sentito l'ultimo passaggio che ha fatto, poi non l'ho sentito più. Attenzione Franco da Lecce, Franco Lecce, ascolti Sassari. Sì, positivo, ti ascoltiamo, forte e chiaro. Sì, adesso ti ho riagganciato nuovamente, ma poc'anzi ti ho perso Franco, Dove sei? Zona Lecce in transito? E giù, ho capito sulla tangenziale, poi non ho capito altro. Sì, ho capito io, sulla tangenziale, direzione Gallipoli. Bene, bene, Sud Italia insomma. Benissimo Franco, ma sì, a momenti arrivi sparato e altri momenti arrivi naturalmente con molto queste B, per cui è un po' più difficile nell'ascoltarti. Comunque questo tuo passaggio che hai fatto si è arrivato proprio sparato a bomba. Avanti ancora Franco. Sì Franco, sì, stai uscendo liscio, sì, la preparazione a momenti è molto buona, dunque riesco ad ascoltarti, tu 25 watt e io ne ho 10 appena, ti puoi immaginare, ancora meno, però io sono a stazione fissa, tu sei in Barramobile, per cui c'è una certa differenza, va benissimo così, comunque ti ascolto molto bene. Solo che si sa, essendoci un po' di QSB, in certi momenti mi sfugge ciò che dici. si manda avanti di nuovo Claudio. Vai Claudio. Sì, chiappa, molto bene Franco. No, ma io sono riuscito ad ascoltarti, ma non magnificamente bene, perché è un po' di QSD, nel senso che il segnale sale e scende, evidentemente come sei in transito lì per Gallico, insomma, è per quello che fa così. Però sono riuscito ad ascoltarti abbastanza bene. Ok, molto bene Franco, ancora ti ricambio. Benissimo, no? L'antenna sta funzionando bene, non ci sono problemi. Ok, quindi non crearti problemi, stai andando molto molto bene. Avanti Giulio. Sì, confermo anch'io Franco, sta andando bene, non c'è problema. Poi con quella potenza 25 watt in barra mobile non è che si può avere più di tanto. Va benissimo Franco, non c'è problema. Ripeto, solo in certi momenti che magari si abbassa il segnale, allora diventa difficile nell'ascoltarsi. Comunque ci ha fatto molto piacere che tu sia entrato a salutarci, per cui abbiamo fatto un buon contatto Franco. Avanti ancora Franco, ci hai ascoltato K. Sì, Claudio, sì, Franco, è un filo diretto, lo so, ripeto, noi siamo a stazione fissa, noi siamo a stazione fissa, sia io che Claudio, per cui, magari è per quello che riesci a sentirci sempre bene. Tu essendo in barra mobile, a secondo della posizione dove ti trovi, arrivi alle volte benissimo e altre volte un po' meno bene, per cui il problema è solo quello, nel fatto che tu sei in movimento. Però quando arrivi bene, devo dire che è abbastanza buono sia il segnale che la radio. Avanti Claudio. Sì, capo, molto bene. No, arrivi magnificamente bene, come ti ha detto Giulio, quando la propagazione permette arrivi bene, nonostante stai transitando da Lecce a Gallipoli, arrivi molto bene, Franco. Ma nessun fastidio, Franco, nessun fastidio. Io ripeto, naturalmente se in certi momenti c'è sovrammodulazione, chiaramente il fastidio lo sento, però non dipende direttamente da te in quel caso lì, perché tu arrivi bene, riesco a sentire anche bene, perciò non c'è problema. Si tratta solamente di avere sempre i momenti puliti per quanto riguarda la sovrammodulazione, soprattutto il segnale che non sia troppo basso, per cui allora non ci sarebbero problemi non ascoltarti, perché in questo momento la propagazione sembra ancora discreta, non è buonissima, però è discreta. Avanti ancora a Franco. Ok Franco, vediamo un po', fammi indovinare, adesso io ti dico un nome così a caso, vediamo un po' se indovino da quale dottore l'hai mandato. Dimmi se l'hai mandato da Framic, o Framic, qualcosa del genere, non lo so la posizione giusta, in quale città è, non lo so, comunque so che è lì in bassissima Italia. Avanti ancora Franco. Ok Franco, sì, vabbè, ho capito che sei da Gallipoli praticamente. Sì, no, quello che dicevo io, tu l'hai mandato, la tua radio l'hai mandata dal dottore, no? E appunto volevo indovinare, adesso questa è una mia idea, perché so che è un tecnico che di baracchini ne ripara tantissimi, non solamente dalle zone limitrofe a lui stesso, ma bensì da tutta l'Italia, anche da tutta l'Europa. Ho chiesto se tu il tuo baracchino l'hai mandato da un certo Framic come riparatore. Avanti ancora Franco, scusa Claudio. Ah, ho capito, no. Allora non ho indovinato, vabbè, pazienza. Era solo una mia idea, perché so che è un tecnico molto affidabile per quanto riguarda questo genere di radio, per cui tutta l'Italia lo cerca, tutta l'Italia le manda del lavoro e sono contento per lui. Avanti Claudio. Ho capito il tecnico. Kramic, mi credo che sia in Calabria, credo, e non ricordo bene la sua città, ma è uno che anche dalla Sardegna c'è gente che gli ha mandato il barattino per riparare un Claudio. Ad esempio una certa ragazza anche di Ussi addirittura ne ha mandato già due o tre da riparare, ma da tutta l'Europa gli mandano i baracchini per ripararli, ma anche due, tre, quattro per volta, a seconda di quanti uno ne ha, per far riparare, sempre da questo Framic. Io l'ho scoperto tramite YouTube, l'ho scoperto, infatti alle volte l'ho anche contattato, come avrei dovuto fare per poter riferire qualcosa, e mi ha detto, e mi ha mandato l'info dove trovare il suo indirizzo, tutto lì. Va bene, detto questo, avanti ancora Franco, non lo sento più Claudio. Ecco. E avanti, va bene. Sì, ciao, buonasera Giulio, buonasera Claudio. Allora, ero io qua, quando stavo scendendo nel quel cavo, è partita la portante, mi sono caffarando per tirare nel quel cavo famoso che ci siamo sentiti di alimentazione. Ciao Roberto, ho visto un signore, ma non so chi sia. Ciao, buonasera, ben ascoltata. E vabbè, no, non c'erano problemi, con calma l'avremmo fatto. Siamo anche sera. E prendi, vabbè. Sta parlando questo di Gallipoli. Sta parlando con lui, aspetta, vabbè. Ok Franco, ascolta Franco, intanto io personalmente ti saluto, però ti mando avanti un altro amico sempre dalla città di Sassari e vediamo un po', lui sicuramente riuscirà ad ascoltarlo alla grande, non c'è problema. Ok, se ti senti salutato e ti ringrazio per il cuore che ho, Franco. Giulio da Sassari ti super saluta e faccio girare per gli amici. Prima Claudio, che probabilmente ti saluta anche lui, e poi ti mando avanti Roberto. Avanti Claudio. Sì, Quesselle, molto bene. Ciao Franco, se ancora ascolti Claudio da Sassari, un abbraccio e grazie per essere entrato a salutare. Avanti Roberto. Sì, no, io l'ascolto molto bene. 9:10 stava arrivando qua. Molto forte Franco, non so se si è abbassata adesso di nuovo la propagazione, comunque ti ascoltavo perfettamente, il segnale molto chiaro e forte. Non so se mi cuffi, ti rilancio. Ti saluto e avanti a te Franco. Roberto da questa parte. Adesso si è abbassato. Santiago 8, ti sto perdendo comunque, sei arrivato appunto alle 9:10. Comunque ti risaluto e ti auguro una buona serata anche da parte qua degli amici. Dai. Noi proseguiamo qua sul canale 10, quando vuoi puoi entrare, sei sempre ben accetto. Avanti a te di nuovo Giulio. Ok. Sì Franco, io ti saluto ancora una volta, ma l'ultimo passaggio purtroppo l'ho sentito solo in parte, non più di tanto, per cui ti avevo mandato avanti anche l'amico Roberto per salutarti anche lui, ma adesso continueremo il QSO qui locale. Ciao ancora Franco, grazie per essere entrato a salutarci, alle prossime, a risentirci magari in condizioni anche migliori di adesso. Ok, avanti qua. Ciao di nuovo Franco, tante cose belle, alle prossime, vai Roberto. Ok, c'è qualche altro poi qua sul canale 10, o solo voi ci siete qua? No, solo io e Giulia. Questo è 43, ecco il telefono, scusate un altro. Sì, questo è il 430 mitico. Quando gli scrive al telefono, sempre compagnia che suoneria fantastica che ti ho messo col telefono, te le mani. No, ma questo è, lo senti così in radio, tu devi sentirlo quando è in strada, sembra che ci siano veramente carabinieri. Sì, è fantastico, è un bel coso, un bel allarme, vabbè, una bella suoneria, vabbè, comunque, bene così. Vediamo se c'è qualcun altro che vuole entrare. Natalino stasera ha fatto vacanza, poi altrettanto ha fatto vacanza Gianfranco, tutti quanti al mare ad abbronzarsi da chi ha pecchiare. Se qualcuno non vuole entrare, ma come sogno, non arrivano, no. Riprendi qua. Purtroppo così, a volte non ce ne voglia, bisogna fare il bisogna più grande, non mi sono vicini di andare resta radio, no, un casino. Sembra che non hai mai niente e c'è un sacco di cose. Eccomi. Vabbè, vabbè, riprendi. Ma non c'è più Giulio? Sì, sono qui, stavo chiudendo la porta, niente di più. facciamo le torine, combino male posizionissimo, ho detto solo Claudio, ma c'è un po' di propagazione comunque, sto sentendo, anche se è un miscuglio perché ci sono sovrapposto l'uno con l'altro, comunque, col caldo è normale che succedano queste cose qua. Ok, e che sarebbe da casa vostra voi? Ma no, qui tranquillamente, bene, no, non c'è problema, no, beh, qui sta bene, per cui se faccio un braccio attacco la patenda, per cui non c'è problema, tu vai qua. No, io caldo non c'è qua, sta benissimo. Beh, sì, vabbè, è già ventilato, dove sei tu è abbastanza ventilato, d'inverno bisogna vedere un po' di chi vi tira l'aria. Sì, la sera di là, vabbè, ragazzino a tutti, c'è il ci va bene lo stesso. Non mi ricordo se c'era il camino, c'era il camino? Sì, che c'è. Ma lo utilizzate o solo per balletto? No, per il momento non l'ho ancora manco toccato, poi ci vedrà d'inverno, ma c'è l'impianto di riscaldamento a caldaia e... cioè termosifoni, ogni termosifone è da 18 elementi. No, utilizza la pacuzena, dico, a rostire. No, proprio un momento, no. Ce ne sono due fuori, uno c'è più del passato, no? E ho finito anche l'altro, ce ne sono due, uno piccolo e uno grande. Uno per noi quando siamo in tre e quello grande quando siamo in tanti. Quindi voi fate pure un forno di fene o un forno di gozzo, rimane? Tu pure non vai, no, vabbè, già lo sai. Sei già venuto qui, quindi già lo sai. No? Sei il primo che è venuto e ancora non era manco finita, perciò mi pare che c'era l'erba alta quando sei venuto. Sì, dovevi fare dei lavoretti, c'era qualcosa da fare, ma piano piano già si fa tutto. Già lo so, che ti dava di vendere il campagnolo, cosa avresti di casa? Meglio che fare un appartamento sicuramente. No, Robby, non serve, sono venato, sto bene, non mi manca nulla lì, altro appartamento, mi truppi stamattina, stavo parlando col padre di quella della... ho comprato la mia casa a Sassari, già problemi col condominio perché da 90 euro le hanno portate a 120, hai visto? Così è, io 1600 euro all'anno, me le tengo in tasca, Robè, 1600 euro all'anno di condominio pagavo io, cioè ogni anno mi veniva la disperazione, capito? Mi veniva la disperazione, e quindi adesso sono più che contento, non contento, più che contento. E poi se ci sono cose di manutenzione straordinaria, tipo rifare facciate o aggiustare qualche cosa di importante, so di name. Vabbè, quattro volte ho partecipato, in 35 anni ho abitato lì, quattro volte ho partecipato alla facciata interna, adesso vanno a fare quella esterna, ok? E ci vogliono 350.000 euro, quindi vedi bene. Io veramente ho realizzato il mio sogno, sono contentissimo, lo auguro a tutti, veramente a tutti di cuore di fare una cosa del genere, però io non ce la facevo più a stare in condominio. Non perché stavo male, per carità, ma perché si stavano buttando via tanti di quei quattrini che non ne avete, è grande roba lì, lo sai, è grandissimo, enorme. Sono 65 appartamenti, quasi 115 persone, sembra un villaggio, ci sono 220 posti auto all'interno, cioè guarda che non è da paura. Spese, tutti i santi giorni ci sono spese, tutti i santi giorni. Adesso, purtroppo, quando vai in condominio, quando sono così grandi, avanti a te giù. Ok, beh certo, in un complesso così spese ce ne sono tutti i momenti, questo è scontato, non ci sono dubbi, per cui 1600 euro di condominio tutti gli anni sono risparmiati, pensa che c'è gente che non ripaga l'affitto, 1600 euro, secondo, ma naturalmente parlo di case popolari, è ovvio, no? Però per dirti com'è la situazione, e tu lì praticamente avevi un affitto, avevi, nonostante che la casa era la tua, lì era come pagare l'affitto, perché in definitiva 120 euro al mese sono tanti, sembrano una fesseria, invece no, sono tanti, perché a fine anno fanno cumulo, senza tutte le cose extra, eccetera, quando c'è da fare riparazioni e varie, e poi tutte cose che ti aggiungono ancora, chiaramente è così, vabbè. Comunque il tuo sogno l'hai realizzato e io sono contento, tu sei contento e io sono altrettanto contento per te, figurati un po' qua, riprendi. No, ma io non ho niente da aggiungere, niente da dire, perché veramente, cioè, quando è così hai fatto, che dovevi fare, insomma, quello di petto alti e bassi, con tante problematiche, eccetera, perché qua c'è sempre da fare. Qua ti alzi la mattina e non ti annoi, c'è sempre da fare. Però sono contentissimo di aver scelto questa cosa, perché stare in condominio non era più possibile. Ma ripeto, ribadisco, non perché avevo problemi, non ho mai avuto problemi di niente, sono stato sempre al mio posto, sì, anche con il parcontenne, con tu non mi hanno mai, però le spese stavano iniziando a essere troppo alte, troppo. Adesso so che devono fare lavori straordinari, quindi altri soldi, altre cose, no? Assolutamente, va bene così. KK, quindi vabbè, sei riuscito a tirare fuori quel carretto? Una faratura, una sudata, a toglierlo già abbastanza semplice, a rimetterlo sarà un bel problema, vabbè, devo togliere un po' di roba, già l'hai visto, ti ho fatto vedere la foto, adesso è tutto cambiato nella stazione, però già mi arrangerò, dai, perché è un giramento di scarica, per quello a me non piacciono le radio col coso, a 12 volt con l'alimentatore, devi fare tutti i giri, eccetera, col grande invece a 220 non è problema. Lo so, però le radio purtroppo sono a 12 queste, capito? Io qualcuno ce l'ho a 220, io ce l'ho vero, però quando inizia a passare carri e carretti, io quando ho fatto il traslocco che mi inizia a staccare carri, credetemi, cioè su tutti i carri che ho recuperato da dietro, non attivi, cioè solo agganciati e messi lì, avrò fatto una busta di carri, non servivano a niente, perché poi alla fine agganci e lo lasci lì, giusto che ci devo attaccare una radio, ci devo attaccare una radio, alla fin fine rimane tutto staccato, vabbè. Avanti Giulio. Ok, ovviamente sì, meno fili ci sarebbero, e anche più spazio, perché se ci sono gli alimentatori si occupano anche spazio, però questo genere di apparecchiature generalmente sono con l'alimentatore, per cui bisogna sopportare anche quello e avere anche lo spazio sufficiente e necessario per poterli mettere e installare. Va bene così. E vabbè, comunque, io sto uscendo senza processore già da un po' di giorni, ho senza processore con un micro-martiglia, 1,5, e tutti non mi hanno detto niente, anzi tutti mi hanno detto che va bene, per cui sto continuando ad andare avanti così almeno non sfrutto la potenza della radio al massimo, perché il processore si sa, è sempre un incentivo per il modulatore. Beh, vabbè. Qua giù, stai uscendo perfettamente, non ti posso dire niente, è perfetta, radio forte e chiara, il segnale 69+20, cosa vuoi di più? No, assolutamente niente, non voglio niente di più, mi va bene così, tranquillo e pacifico, mi regolo dall'oscillatore, cioè dall'oscillazione della lancetta dello smittere, solo che vicino adesso un carica batterie, un funghetto praticamente a LED, no? E questo funghetto accende in 3 volte, 3 o 4 volte, schiaccia la portante e accende una prima illuminazione, schiaccia la seconda volta la portante, si accende la seconda volta, poi la terza, e poi alla fine si spegne e poi si riaccende continuamente. Predicino, i LED sono fantastici, tante volte. Basta uno, ma anche col PMR, lo metto vicino, anche col PMR riesco ad accendere i LED di questo funghetto, che poi in realtà non è altro che un porta telefono con 5 prese USB per poter mettere i vari telefonini o tablet per la ricarica. Ok, avanti qua. Tipo quello che avete dato a te, però quello è per agganciare i microfoni. No, anch'io, vabbè, io il processore lo uso perché mi piace usarlo, poi sto andando con 10 watt e 20 modulati. Non la tiro questa radio, perché se aumento la potenza, già hai visto, infatti vedi la differenza che c'è Giulio, quando uso la potenza alta con la potenza bassa, c'è la differenza, quindi va bene così, l'importante è ci sentiamo, vero? A voglia, ci sentiamo, pure troppo, cosa vuoi di più? No, anche tu è fortissima, poi quella di Giulio è un po' più bassa, ma è chiara e perfetta, niente da eccepire. Io penso che stia uscendo discretamente anche io, non mi avete detto niente, per cui va più che bene. Ottimo, va bene, alla grande. Queste sono le grandi radio della CB di Sassari, in fatto di emissione e di chiarezza e intelligibilità, per cui non ci possiamo lamentare, vai. non lo sapete, la batteria, cosa dico, sempre inutile, bombardamento, ecco, cose strane, a chi piace se lo mette, la radio deve essere pulita e chiara, come quelle che stiamo utilizzando adesso, non ti devi dire come, cosa hai detto, non ho capito, aspetta un attimo, ripeti, parla più piano, purtroppo è così. Diciamo che la crema della CB di Sassari, le nostre modulazioni. Comunque in linea di massima usciamo bene tutti, usciamo bene tutti, eccetto qualcuno che alle volte ha bisogno di un aggiustamento, però quella è una cosa normale che può capitare, può succedere, magari hai girato un potenziometro inavvertitamente e allora hai una cattiva regolazione, però poi si sistema tutto alla grande, non c'è problema. Vai Claudio! Io dico sempre che è meglio avere una bella modulazione, io sapete benissimo tutti gli anni che mi sentite radio, questa è la mia radio, non vado mai a cambiare, posso usare un baracchino, però a me piace avere la modulazione bella, corposa, ma soprattutto chiara, perché poi alla fin fine succede che, come ha detto Roberto, non ti sentono, qui, non là, non ho capito, invece una bella modulazione è la cosa più semplice al mondo, vai Roberto. Ma certo, ma poi metto la radio, di caso mi piace per questo stacco del microfono, è inconfondibile, proprio punk. È il lock dell'MC60, è così, il lock dell'MC60 sto sempre facendo, spostando, mettendo a posto. Va bene, va bene. Quando io dissi nel lontano 1987, perché io scoprì questo tipo di radio nel 1987 e quando tutti la sentivano, ma come stai usando, che radio è? Sto usando una, allora forse era il TS430, forse era il primo che avevo comprato, era il TS430, esattamente, da Mario Montari. E quando le misi l'MC60, perché i primi giorni modulavo col microfono normale, quando poi arrivò l'MC60, che allora era ancora della Trio, capito, aveva l'alberino, c'era scritto Kenwood, non c'era scritto, c'era MC60 e l'alberino della Trio, si sono tutti spaventati, e da quel lontano 1986 io ho continuato sempre con la stessa modulazione. E poi ne hai contagiato gli altri? Io ho contagiato gli altri e soprattutto ne ho fatto comprare tantissimi di 430, di 440, ma se tu consiglieri tutti i Kenwood che ho usato io, li usate tutti, della serie 1, della serie, quindi non è che c'è solo il 100, il 140, c'era il 110 che aveva lo stadio finale, il TS110, il TS120, il TS130, il TS140, della serie 6, il 620, il 630, il 650, il 680, cioè pazzesco, tutte, ma tutte con ottima modulazione, nonostante fossero le prime serie, avevano già un'ottima modulazione, perché la Kenwood da sempre ha avuto la buona cosa di mantenere ottima la M, mentre le altre radio, I come Yaesu, in M, fanno schifo. Vai Giulio. Ok, sì, ma certo, in effetti è così. Sì, ho notato anch'io la differenza quando ho sentito altre radio di altre marche, c'è una differenza notevolissima di modulazione, no? Indipendentemente dal fatto della timbrica, della persona, eccetera, però già dalla radio si capiva qual era la differenza. Sì, poc'anzi tu hai detto qua che il rumore del lock, perché tu il lock usi per trasmettere, io ho sempre usato il PTT e sto sempre continuando ad usare il PTT, poi mi dici se si sente, se senti lo stesso stacco che si sente nel microfono di Claudio, o se effettivamente è solamente l'effetto del lock, quello come ha detto Claudio. Vai Roberto. Il tuo è più basso, vabbè, ti ripresente, se non hai il processore inserito si sente di meno. Ma il Claudio proprio fa tonk, io non so se il mio lo fa. Ma leggero. Sì, quando ricordo ho una martellata, è una martellata sull'incudine, va benissimo. Comunque è apprezzabilissimo e dunque si capisce subito che è lui, eccetera, eccetera. Va benissimo. Avanti Claudio, tu il doc usi? Io uso il PTT. No, io uso il lock perché poi tolgo la mano, capito? Uso sempre il lock per comodità, l'ho sempre usato. Vabbè, tieni conto, prendo adesso. Adesso io stacco e vediamo un po' se è più forte come stacco. Vai, Robè. Guarda, sto usando anche io il lock adesso. Sì, adesso si è sentito più forte, adesso è il lock. Sì. Giulio si è sentito chiaro chiaro, si sente Giulio, è normale. Ho capito, sono passato di nuovo al PTT. Sì, l'ho sentito anche il tuo, Robè. Si sente. Il lock è leggermente più forte. Va bene, comunque. Va bene così. Io normalmente però uso il cambio canali, lo uso sempre, in genere uso il VFO per i canali, per cambiare i canali, anche quando vado in sintonia continua, premesso che io ce li ho memorizzati, ne ho, a questo momento, da quando è arrivata la radio ne ho memorizzato solo 65, prima ne avevo anche 75, ma mi sono fermato lì a uno, poi quando ne avrò voglia continuerò a fino a 27 e 800, ma non oltre, perché se no poi incominciamo ad essere vicino alla banda dei 10, per cui è meglio rimanere distanti. Per dire, io sempre uso il 25 e raramente uso il cambio canale dal microfono. Sì, qualche volta glielo faccio, ma lo faccio solo per mettere in attività il tipo del microfono anche in quella funzione. Avanti qua. Guarda, adesso io sto usando il PTT, vedi? Guarda, lo vedi? Sì, è più basso, è molto più basso, sì, è vero. Mentre invece se uso il lock lo senti. Ma è una questione che è un'abitudine, attualmente è un'abitudine che ho, ma anche con il MB5, con il Turner, con Savelta, uso sempre il lock, non lo schiaccio mai il PTT, capito? Vai, Robè. Infatti questa è un'abitudine. Come io non riesco a usare i microfoni da palmo, c'è gente che usa solo i microfoni da palmo, fa in frequenza, io proprio una cosa che non mi piace e mai mi piacerà, perché è scomodissimo, a momenti ce l'hai attaccata alla bocca, a momenti ti giri, fai, ed è seduto, io sono sulla sedia girevole, di fronte al microfono, perfettamente comodo e non ho nessun problema. Con quelli da palmo proprio una cosa che non mi piace. Io addirittura ho fatto anche il collegamento a un microfono normalissimo, di quelli da 15 euro, cioè di un semplice baracchino, con la prolunga naturalmente, e ho fatto lo spessore e ho provato e va benissimo anche con un microfono normalissimo di un semplice baracchino da 4 soldi. A parte il fatto che ho anche quello l'MB4, ma ormai non lo sto più usando nemmeno quello, l'MB4, sto usando il suo e basta, perché è inutile mettere da parte un microfono che costa 170-180 euro e usarne uno che costa 50-60 euro, è preferibile usare questo. Avanti Claudio. Sì, ma non si discute, cioè il microfono a tavola lo usiamo per comodità, però il microfono normale è sempre utile perché devi fare delle prove, devi, insomma, capito, non c'è niente da fare. Il microfono normale ci vuole tutti i microfoni normali, ci vogliono, però come l'MC60, come tanti altri tipi di microfoni, li usiamo per comodità, perché il microfono a tavolo per chi ha spazio è sempre una comodità, non è questione di forza, di quello o di quell'altro, perché tu sai benissimo che se io metto il microfono normale esco bene, è lo stesso, non è che ho problemi, è che si fa per comodità, ripeto. Vai Giulio. Certo che sì, se non è che uno lo usa così, no, ma è più comodo, dai. Per me personalmente è più comodo, perché rimane appoggiato sul tavolino, non faccio altro che allungare il braccio e basta. E poi parlo anche da lontano, mentre invece quando ce l'hai un microfono palmare te lo devi anche avvicinare alla bocca. Io addirittura non solo di avvicinare la bocca a questo, perché è lontano, allo stesso tempo ho anche una specie di sacchetto che copre tutto l'intero microfono, per cui non ci sputacchio, a parte il discorso che sono lontano, ma diciamo che per così dire, per capirci, non ci sputacchio sopra, in poche parole, perché c'è sempre questa bustina, cioè, che è lunga un palmo e copre tutto l'intero microfono, per cui va bene così. Avanti, Robè. Sì, molte volte, no vabbè, io non ce l'ho il parapolvere, chiamiamo così detto parapolvere, ma molti lo usano per questione, ma non sono, diciamo, di quelli molto schizzati. schizzi, no schizzi no, che schizza, allora almeno non credo, qualcuno è meglio che ce lo metta, sarebbe meglio, perché c'è gente che ha qualche problema di dentatura, magari riesce a scaricare un po' di saliva. No, ma proprio per il fatto della polvere anche, perché questo perennemente è dentro lo sacchetto e dunque che ne coccolo non c'è bisogno nemmeno di passare il pennello e spolverarlo, niente, perché è sempre pulito, perché essendoci il sacchettino non si accumula nelle insenature del microfono, non si accumula polvere, niente, va bene così, avanti qua. Sì, ma si riserva tantissimo anche con la cuffiettina, con la spugnettina di soffio, che a prescindere, come dice Roberto, non ci sputacchi sopra, perché può succedere, ma riserva molto la capsula, capito? Riserva molto la capsula, la polvere è un'altra cosa. Molto importante usare le cuffie antisoffio con le spugnette antisoffio, a prescindere come hai fatto tu, e ci hai messo una protezione diversa in generale, però la protezione vera e propria soprattutto sull'MC60, sull'MC50, su microfoni insomma che hanno questo tipo di caratteristica, va bene usare la spugnetta antisoffio. Vai Giulio. Ok, io nel MB4 ci ho messo la pedivella. Oh, funziona bene, no, io nel MB5 ci ho la caldarella. No, certo, in terra, ecco, chi c'è, tac, chi c'è, parlo, non tocco più niente, col piede. No, col piede, no. Io col piede, mi ho dato un professionale Roberto di pedivella. Che bella è da poter fare un bel PTT a piede. No, non mi piace questa cosa in terra, poi magari bassa vipo, si aggrampa come la bottante. Dai, riprendete, io se ci siete dopo, ma sicuramente non ci siete, praticamente vi salutate, riprendi Giulio, ciao Robert, ciao Claudio, ciao Giulio e ciao chi ce l'ascolto, ciao. Ok, ciao Luca, ci sentiamo alle prossime. Sì, vabbè, tu sei sempre una bella, sempre bella lente, sì, ma oggi c'era riposo per la tappa del Giro di Francia, riprenderanno domani, dai, domani pedala forte, così almeno io accendo la televisione e ti vedo. Avanti, domani, grande emozione per tutti gli italiani fanatici del calcio. Esatto, grido, domani è bello, dai. Ok, speriamo bene. Se giochiamo come sappiamo giocare non temiamo a nessuno. Io ho detto dall'inizio, l'unica che ci può dare fastidio è l'Inghilterra, perché giocano aggressivi come giochiamo noi, su tutti i palloni lottano. La Spagna, se non facciamo offensivi, la possiamo battere secondo me molto più facilmente del Belgio. Però speriamo che non ci sia qualche sorpresa, non facciamo qualche fesseria, perché molte volte basta un errore, una punizione, un rigore e perdi la partita, come è successo con quel rigore che poteva farne a meno, è stato generoso, però abbiamo rischiato, fortunatamente abbiamo vinto alla fine, se quei salvataggi, diciamo, abbiamo meritato la grande, però abbiamo rischiato un pochettino, dovevamo stare un po' più attenti senza fare troppe fesserie dietro. Ok, ciao Luca, comunque ben sentito, avanti a te Claudio. Ciao Rogerie, alle prossime, stammi bene, cordialità e saluti, dai, non c'è problema. Roberto, però come ha già detto Giulio, la palla è tonda, bisogna giocarcela, ci siamo arrivati lì, dobbiamo giocarla bene, stare molto attenti mentalmente e fisicamente, perché la Spagna non è una squadretta da sottovalutare. Non è più la Spagna dei tempi che furono, però è sempre una grandissima squadra, ha calato tantissimo, però è sempre la Spagna, non bisogna succedere, ripeto, come ho detto Giulio, domani l'Italia vince con la Spagna, a noi ci tocca l'Inghilterra, e allora lì bisogna vedere chi è più bravo. Vai Giulio. Ok, beh certo, io spero solamente che siano sempre in piena forma la coppia difensiva della Juve, che al momento sono in grande forma, sia Bonucci che Chiellini, stanno facendo un grosso campionato, va benissimo così, in modo che possano bloccare anche Morata domani, anche se sinceramente parlando non ho nessuna paura io di Morata, perché per me Morata è semplicemente un normalissimo giocatore, non è mai stato un campione. Da quando io l'ho visto giocare non ha mai brillato, né quando era la Juventus la prima volta, né quando è stato al Real Madrid, né quando è stato al Manchester, e tanto meno adesso che è di nuovo alla Juve. è semplicemente un normalissimo giocatore, è un giocatore che non è pericoloso più di tanto, per cui con la qualità di Bonucci e di Chiellini non dovrebbe avere scampo lui. Comunque ci sono anche gli altri, chiaramente, che anche gli altri vanno ben controllati, non ci sono dubbi. Comunque abbiamo buone possibilità, speriamo bene, però si sa, come hai detto tu, vabbè, capita un incidente di percorso, sai, un fallo di mano involontario, una finta così stupida come ha fatto Di Lorenzo contro il Belgio, perché quella è stata un'entrata stupida, anche se c'era qualche dubbio nell'assegnazione del rigore, perché poteva anche non esserci, però l'arbitro ha pensato di darlo, l'ha dato e Lukaku ha segnato. Ma Lukaku però non ha toccato un pallone con quei centrali della Juve. Avanti, vabbè. Sì, io spero soltanto che non giochiamo in 10 come l'altro giorno. Io sono ottimista per cosa? A me non piace Immobile. Speriamo che la brutta figura che ha fatto l'altro giorno lo faccia giocare e gli dia uno stimolo in più, perché è troppo scenografico, si cude in terra, appena lo doppio, è stato un'ora la parte in terra, poi se ne è pisato come niente. Fa anche fastidio, irritante un giocatore così. Così faceva Chiesa, con la Juve fortunatamente non l'ha fatto e sta giocando alla grande con la nazionale. Sono contento di quello. L'unica cosa che non mi è piaciuto quel cacchio di Immobile, proprio una persona che però, considerando che altre partite ha giocato bene, ha fatto anche dei gol e speriamo bene. E poi, come hai detto, basta un episodio di lì, perdi o vinci la partita, ti può capitare un rimbalzo, un palo, un tiro, un cross e ti prendi il corso. Va bene, avanti a te Claudio. Infatti come hai visto, cioè, l'ha tolto Immobile. Io contro la Spagna non avrei messo Immobile, assolutamente. Io avrei fatto quel presente l'altro giorno, Chiesa insigne Pessina, tranquillo, pure Belotti, insomma, può essere interessante, ma proprio Immobile a me non è che mi ispira molta fiducia. Vai Giulio. Ah, diciamo che Immobile non è un fuoriclasse, indubbiamente non è un fuoriclasse, però è un ottimo giocatore, dai, non dimentichiamoci che Scarpadoro l'anno scorso, l'ultimo campionato, è stato Scarpadoro, i suoi gol se li ha fatti, perlomeno se li ha fatti, evidentemente in questo periodo non è più fortunato come lo è stato nel campionato scorso, per cui non è sempre che uno si trova in condizioni diciamo di grande freschezza e soprattutto di grande opportunità. Sì, Belotti non è male, però io secondo me, almeno tecnicamente, Immobile è più forte di Belotti. Belotti non è male, sia ben chiaro. Ma quello che mi dispiace soprattutto è che non c'è cosa, come si chiama? Ma Spinazzola, poveretto, si è rotto il tendine d'Achille, si è rotto. E quello è un handicap in difesa, anche se Palmieri riesce a sostituirlo, almeno mi auguro che riesca a sostituirlo alla grande ugualmente, perché anche lui già è un buon giocatore, per cui però in questo momento Spinazzola era in grande spolvero e avrebbe fatto grande comodo a questa prossima partita e anche per il proseguo del campionato se dovessimo andare ancora avanti. Florito, c'è da dire, nel male, noi adesso quelli che sono risubentrati sono tutti andati bene, perché quando è uscito Coso, quello Florenti è entrato là, quello Castelli ha fatto un partitone, poi è entrato Coso Pessina, ha giocato bene, è entrato Chiesa, Belotti in più di Coso, di Immobile forte sui colpi di testa e poi grintoso, perché Immobile va negli spazi stretti, va bene, in area di rigore riesce a trovare la porta, però in spazi grandi è meglio Belotti, mi piace di più, però diciamo tutti quelli che sono entrati non possiamo dire niente di male, l'unico che non è entrato è Meretti, tutti gli altri hanno giocato tutti e tutti quelli che sono entrati sono stati più che sufficienti. Ok, speriamo bene comunque, avanti a te Claudio. Sì, Crescelle, ma è così infatti, cioè la squadra intanto è molto fiaccata, è molto, ho visto che ha un grande gioco, però dobbiamo dare atto anche a Mancini, fare i cambi allucinanti, quindi spero che con la Spagna riesca a realizzare il sogno che insomma, fare una finale di europea e per l'Italia, che tenete conto, attenzione, che l'Italia ha preso un gol nel campionato europeo, un gol, capito? A differenza di tutte le altre grosse che sono uscite, come il Barcellona, come il Barcellona, il Portogallo, la Francia e tutte le altre forti, hanno preso un sacco di gol. L'Italia ha preso l'unico gol su calcio di rigore, due ne ha preso, su uno su calcio di rigore e l'altro su quel colpo di testa con chi era, adesso non mi ricordo se era con la Turchia, no, con l'Austria, quindi insomma, c'è anche una grande difesa, come ha detto Giulio, quindi penso che la Spagna non sia temibile. Vai Giulio. Buonasera. Ciao a tu. Sì, beh, indubbiamente sì, abbiamo, al momento abbiamo grande salute nel pacchetto difensivo, questo sì, non ci sono dubbi, e anche il centrocampo era straordinario lo stesso, e adesso speriamo che continuino così, con questa grande forma. Mi è dispiaciuto un attimino per Berardi, che ha avuto un calo, però Chiesa l'ha rimpiazzato alla grande, soprattutto quando è entrato a 10 minuti dal termine della partita, che è riuscito in diagonale a fare subito quel gol e poi si è subito raddoppiato e abbiamo vinto la partita senza nessun problema. Però diciamo che noi i nostri rischi li abbiamo passati, perché ci sta il calcio così, perché nella storia del calcio ci sono sempre le altre squadre anche che giocano come avversari, giocano anche loro per vincere, sono combattivi quanto e alle volte anche più dell'Italia. Avanti, vabbè. Certo, aspetta, saluto Antonio. Ciao Antonio, ben sentito, vai qua per Antonio. Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato, avanti. Capa, io avrei fatto giocare anche a Locatelli, perché c'ha un bel tiro da lontano, c'ha. Se ci ricordiamo bene, un gol l'aveva fatto da 20 metri, l'ha fatto. Quello lì può far male molto alla Spagna, se è in forma. Si conferma. Quindi Giulio, un attimino mi assento, secondo me. Sì, d'accordo. Sì, in effetti anche Locatelli è un buon giocatore, non è un campione per conto mio, non è un fuoriclasse perlomeno, ma è un buon giocatore, può far comodo. Devo dire che dalla primissima partita che ha fatto non mi è piaciuto più di tanto, perché ha fatto una partita, è stato un centrocampista da fuggio e basta, era quello che riceveva il pallone e prende sul villo subito immediatamente, mentre invece nella seconda partita ha fatto una partitona e è stato fondamentale anche lui. Locatelli, anche lui se si trova in forma non dispiace, è un ottimo giocatore lo stesso, dai. Ripeto, fuori classe l'Italia non ne ha, forse un tantino verrà, forse, e non so più, non so quanto, però proprio veri campioni non ne ha, ma ha una buona amalgama, una buona squadra, una buona intesa, un buone schemi di gioco e soprattutto ha un fraseggio stretto e anche veloce quando si impegnano. Speriamo che continuino così. Avanti, Roberto. Sì, speriamo bene, dai. Lui ti ha detto basta stare attenti, evitare i rischi, giocare semplice come hanno sempre giocato. Tutte le volte che hanno fatto qualcosa di complicato, hanno perso il pallone e abbiamo rischiato di prendere il gol. Speriamo bene. Di nuovo a te Antonio, va. Per questa partita ci vogliono, perché Spinazzola è infortunato. E quello lì è un tornado, cioè, penso che c'è qualcuno che è veloce, ma penso che non ci sia nessuno veloce come lui. Quello lì è proprio un tornado, è un ragazzo che corre come una saetta, corre, cioè non capisco proprio perché questi legamenti gli hanno ceduto. E lui ci credeva tanto.